Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto Mondo. When he was presented with that number, he said it is what it is. Well, it is what it is because you are who you are. That's why it is. Because he didn't want to panic the American people. You don't panic, he panicked. Ciao Giulia, buongiorno. Buongiorno. Questo era Biden. Sì, io sono un po' addormentata perché ho messo la sveglia alle 3. All'inizio ho capito, insomma, pensavo invece alle 3 perché era alle 9 di sera. Quindi ho messo la sveglia alle 3, me lo sono ascoltato tutto. Poi me lo sono riascoltato alle 9 con tutti i commenti e quindi sono un po' ubriaca. Hai dormito pochino. Però, cosa diceva Biden? Il dibattito, come avevamo detto, è stato diviso un'ora e mezza in sei parti di un quarto d'ora. Sì. Questa era la parte sul Covid. E Biden dice, quando le sono stati dati i numeri, quelli famosi che poi Trump ha confermato di aver saputo nel libro, nel nuovo libro di Woodward, Biden gli dice, lei ha sentito questi numeri e ha risposto, è così, it is what it is, e lui risponde no, è lei che è quello che è, cioè il presidente. E poi dice sempre Biden, lei ha detto, poi si è giustificato, non ha negato di aver saputo, ma si è giustificato nel non aver parlato all'opinione pubblica, perché ha detto gli americani sarebbero andati nel panico. E Biden, rivolgendosi alla telecamera, dicendo you don't panic, cioè voi spettatori, voi americani non sareste andati nel panico, you panicked, tu sei andato nel panico. Questo è stato un po' il tono dello scontro, tanto che per esempio il New York Post, che è un po' un tabloid di New York, ha semplicemente un titolo gigantesco, 5 parole, nasty, che vuol dire brutto, spiacevole, sgradevole. Quanto è stato seguito? Ci sono già i dati d'ascolto? Un pochino meno di 100 milioni. Che comunque tanto. L'altra volta il primo dibattito tra Donald Trump e Hillary Clinton era stato seguito da 84 milioni di persone. Per questo dico tanto, non in assoluto ma relativamente ai precedenti. Tutti i giornali sottolineano che visto come è andato male, perché io ho ascoltato dopo, non contenta di aver ascoltato il dibattito, ho ascoltato anche una mezz'oretta di commenti sulla CNN e una mezz'oretta di commenti su Fox, in molti ipotizzavano che il secondo e il terzo, che dovrebbero essere il 15 di ottobre a Miami e il 22 di ottobre a Nashville in Tennessee, moderati da altri due giornalisti, potrebbero anche non esserci proprio, perché innanzitutto chi li ha trasmessi si è reso conto che era uno spettacolo brutto perché due uomini che di fatto si insultano più o meno apertamente, e soprattutto, e questo anche soprattutto Trump glielo ha sottolineato, persino il giornalista di Fox continuava a interrompere Biden. Una tecnica questa collaudata ormai nei talk show, però in un dibattito televisivo rompendo le regole perché negli Stati Uniti c'è una commissione che stabilisce le date di questi dibattiti e stabilisce anche le regole, gli staff, gli entourage del presidente e del candidato devono sottoscrivere questi protocolli. Il giornalista glielo dice, lei a un certo punto, lei lo ha sottoscritto eppure non lo sta rispettando. Ma se volete sentiamo la voce di Chris Wallace, che a un certo punto gli fa una domanda sulla parte delle disuguaglianze soprattutto degli afroamericani negli Stati Uniti, e Trump innanzitutto quasi non vuole sentirsi fare la domanda. Sentiamo Chris Wallace. Are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups? Sure. And to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha. Qual è la domanda che dice, fa Wallace? Se è disposto, è disponibile, are you willing di condannare qui, senza con parole chiare, gli suprematisti bianchi e dire loro di stand down, cioè di stare completamente quasi di annullarsi. E Trump, adesso lo sentiamo, risponde no, non to stand down, to stand back, cioè di fare un passo indietro, e to stand by, cioè di aspettare. Ma sentiamo Trump. Però stiamo parlando, adesso sentiamo Trump, di cosa? Di queste, i suprematisti? Suprematisti sono queste bianchi, milizie? Che sono divisi in tante milizie. Una delle più violente si chiama Proud Boys, letteralmente i ragazzi orgogliosi, e Donald Trump si rivolge direttamente a loro in questo modo. What do you want to call them? Give me a name. Give me a white supremacists and white supremacists and proud boys. Stand back and stand by. But I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left. Cosa risponde Trump e qui a questa dice, richiesta okay, di va bene, ferme, allora, Proud Boys, stand back, stand by, però vi voglio dire una cosa, che in realtà il problema è a sinistra soprattutto con Antifa, che è l'abbreviazione di anti-fascist, ed certo. È in realtà, qui non è un gruppo esatto, ma è, diciamo, sotto questo nome si intendono tutti quei gruppi che a volte diventano anche l'equivalente dei black bloc che abbiamo visto in Europa, cioè sono a loro volta dei disturbatori, però si mettono addosso, insomma, una bandierina di sinistra, di radicalismo di sinistra. Che altro, insomma, da questo faccia a faccia? Qualche altro aspetto? Guarda, secondo me, anche ascoltando i commentatori, tutti dicono in generale questi dibatti si servono a far decidere gli indecisi. Chi aveva già deciso di votare Trump forse sarà ancora più convinto di votare Trump, chi ha deciso di votare Biden probabilmente sarà più convinto, anche perché ha detto delle cose molto chiare sulla sanità, che naturalmente in questo momento è un tema molto interessante. Gli indecisi, sia CNN che Fox hanno fatto una cosa interessante, hanno preso 20 persone e li hanno messi distanziati, due piccoli focus group, sì, di persone che si dichiaravano indecise, e alla fine hanno chiesto loro: vi siete, qualcuno di loro vi ha convinti? E praticamente la metà di questi, a loro volta divisi a metà, hanno detto voterò Trump, voterò Biden, e l'altra metà è restata indecisa. Quindi forse ci saranno i prossimi due dibattiti. Intanto il 7 di ottobre ci dovrebbe essere un dibattito tra vicepresidenti, cioè tra Mike Pence, sì, per Donald Trump, e Kamala Harris, tra l'altro condotto da una giornalista di USA Today, una donna, Salt Lake City, e vedremo se, appunto, credo che il tema sia questo, l'indeciso. Questa cosa che hai detto, perché se il tema è convincere gli indecisi, allora la strategia sicuramente più usata da Trump che da Biden, perché nella sua personalità di buttarla, diciamo, in caciara e di aggredire molto l'avversario, potrebbe non essere una buona strategia, perché così non convinci gli indecisi, rafforzi quelli, esatto, che sono già con te, però sei lì per quello, per convincere gli indecisi. Uno dei tanti sondaggi che sono stati fatti proprio subito dopo il dibattito davano tra virgolette vincente Biden con percentuali che si aggirano tra il 60 e il 70% su tutti temi tranne che sull'economia sono appaiati, perché in effetti Trump ha dalla sua gli indicatori che conosciamo, poi Biden ha cercato di fare appello, ecco, ma la questione alla per esempio, testa più che alla pancia, ma la non questione c'è dell'inchiesta del New York Times sulla dichiarazione dei redditi di Guarda, Trump è venuta lì, fuori? Io devo dire, forse perché siamo abituati qui in Italia a non vedere questi dibattiti, quindi già per me questo era un faccia a faccia che sogno di vedere anche qui. Però per esempio Simona Siri, che è intervenuta stamattina a 24 mattino, lei vive a New York, è sposata con un americano, lei non era affatto convinta che Chris Wallace abbia fatto un buon lavoro, perché comunque per esempio gli ha fatto una domanda su questo, ha detto dalla rivelazione del New York Times risulta che lei nel 2016 e 2017 ha pagato in tutto $750 di tasse federali, so che lei ha pagato altre tasse con le sue società, ma di questo che cosa ci risponde? E lui risponde: io ho pagato milioni di tasse, punto. Non ha detto nient'altro, sì, e il giornalista non gli ha rifatto una domanda. Quindi è come se lui non volesse, appunto, continua a dire che è fake, chiaro, news, non vuole rispondere, forse ci sarebbe voluta una seconda domanda. Ecco. Allora, oggi effetto mondo era effetto Trump-Biden, però qualche titolo degli altri giornali ce lo puoi dare, Giulio. Sì, tenete conto naturalmente che nessun giornale poteva avere questo, visto il fuso orario, poteva titolare nell'edizione cartacea su questo, quindi Financial Times, per esempio, ha un'apertura tutta pagina su quella questione di Wirecard, il colosso della finanza tedesca che è stato, insomma, al centro di uno scandalo, il suo amministratore delegato e fondatore è stato arrestato, e adesso c'è prima pagina di Financial Times che c'era in realtà un whistleblower, cioè letteralmente colui che fischia e quindi dà l'allarme, che aveva già avvertito 4 anni fa che Wirecard era un'azienda con dei fondamentali pericolosissimi. E poi invece una nota più leggera, sì, i giornali britannici, anche forse per consolarsi dell'ennesimo aumento di contagi, ormai siamo al massimo, 7.000 ieri, solo ieri, in prima pagina c'è la duchessa di Cambridge, la moglie di William, che ieri è stata incoronata presidente delle scout donne di tutto il paese. Questo è per loro, insomma, si consolano, diciamo, la favola della famiglia reale, almeno in Kate e William, consola, mi sembra, i britannici. Abbiamo ancora, credo, qualche secondo, regia, sì o no? Sì, pochi, sì, una trentina di secondi, ma noi in 30 secondi facciamo tantissime cose. No, allora magari un passaggio in Germania, perché sono ancora una volta gli unici giornali che parlano di quello che sta succedendo nel sud del Caucaso, con questo scontro tra Turchia e Armenia. È molto difficile capire quanti sono i morti, però Die Welt titola guerra sanguinosa nel sud del Caucaso. E poi c'è questa notizia sul Tagesspiegel, che è un giornale di Berlino, che invece... dice prossima fermata a Berlino, perché è stato inaugurato un treno che collega direttamente, sembra quasi una metropolitana ma la distanza è molto lunga, Mainz a Berlino. Questo per dire che in Germania si investe in questo tipo di trasporti, naturalmente all'interno del piano verde. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi. Noi ci risentiremo naturalmente domani, oggi con Jacopo De Franchi in redazione, Pietro La Corte in regia. Noi ci sentiamo tra poco per l'aggiornamento. Ciao da Alessio Maurizi, buona giornata. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.